sai. Questo è per te, baby. Ho solamente scritto una canzone. Volevo solamente dirti grazie. Ma farlo a modo mio. Lo sai che mi viene meglio. Ciao, come stai? Sono mesi che non ci sentiamo. Spero tu stia bene, anche se non ti chiamo. Ho una vita frenetica, basata su delle scadenze. Ma in fondo l'ho scelto, io ora pago le conseguenze. Chiedo scusa se ti illuso, la mente è confusa. Ma non è colpa mia se campo di illusioni. E questo ambiente viscido, forse è troppo perverso, che mi ha reso diverso e io non sono più lo stesso. Dovrei pensare agli altri, e forse meno a me stesso. Ma il nostro obiettivo non era fare successo. Adesso quando parlo, parlo solo di me stesso. Parlare di te, ora non avrebbe senso. Sbagliare è stato grave, ma ora non me la prendo. Ho sbagliato con tutti, a partire da me stesso. Riparto da zero, per la seconda volta. L'obiettivo è sempre quello, darsi una svolta. Ho solamente scritto una canzone. Volevo solamente dirti grazie. Ma farlo a modo mio. Lo sai che mi viene meglio. Ti ho conosciuta in un posto che neanche conosco. Credo sia corrisposto, non credo che ti conosco. Il tempo di due cazzate e già mi entri in testa. All'inizio è stato bello, per poco non faccio festa. Poi si ritorna a casa e ritornano i problemi. Io che cambio strade e vado fuori dai sistemi. Lontano dalle merde, quelle che chiami persone. Tranquilla questa volta, non rovino la canzone. Cerco di stare calmo, ma l'odio rimane in testa. Ormai da troppi anni ancora non si arresta. Avrei potuto fare meglio, ma ho dato sempre il peggio. In questa vita mia è come se non trovo parcheggio. Pensavo fosse in te la mia destinazione, ma l'ho capito presto, eri solo una distrazione. Adesso vado avanti, ma spero che torni indietro. Mentire a me stesso è quello che so fare meglio. Mi faccio coraggio, ti ho scritto una canzone. Era troppo difficile spiegarti una parole. Questo è per ringraziarti per quello che mi hai dato. Sembra poco, ma mi è servito tanto. Ho solamente scritto una canzone. Volevo solamente dirti grazie. Ma farlo a modo mio. Lo sai che mi viene meglio.